5B. Ascolta e trasforma. Quella volta fui io a non salutarlo. Quella volta fummo noi a non salutarlo. Quella volta fui io a mandargli un'email. Quella volta fummo noi a mandargli un'email. Quella volta fui io ad invitarla. Quella volta fummo noi ad invitarla. Quella volta fui io a scriverle. Quella volta fummo noi a scriverle. Quella volta fui io a telefonargli. Quella volta fummo noi a telefonargli. Quella volta fui io ad aiutarli. Quella volta fummo noi ad aiutarli.